famiglia, 40, si fa facile. Non serve chi. Alle 20.45 enciclopedia Audio, niente niente. Alle 20.50 il manacco turistico, di Venezia. Alle 20.55 ritiro delle principali notizie. E per concludere la presentazione dei programmi di domani, una canzone amara. A cura di Elia Ola e Heba. Nel 1922, sotto la spinta del movimento nazionalista, la Gran Bretagna concesse formalmente l'indipendenza all'Egitto, ma perse sempre il vero senso della parola, perché l'occupazione britannica conservò tuttavia un ampio controllo sul paese. La Gran Bretagna si osservò infatti con i quattro punti il diritto di intervenire negli affari esteri come le questioni relative alla difesa, ma ottenere tutto inglese sul territorio egiziano e il condominio di fortuna. Ahmed Fuad, figlio di Ismail Beta, succeduto nel 1917 al fratello Hussein Khamen alla guida del Fatonato, militare d'Egitto dal 1922 al 1936 con il nome di Fuad Khamen. La Costituzione, proclamata durante il suo regno nel 1924, estende un sistema parlamentare bicamerale in cui il re deteneva il potere esecutivo e si riservava la nomina del primo ministro. Dall'Egitto, Viola Camì. Radio Cairo presenta Cento anni di cinema. A cura di Ale Sani. L'ascolto, il cinema è l'arte d'oro che ci porta in un mondo molto affascinante e meraviglioso, un mondo di fantasia e realtà, di gioia e tragedia, di luci e lacrime. E in questo mondo ci dimentichiamo totalmente, unendosi ai personaggi ed eventi che appaiono sempre sul grande schermo. E parlando dell'arte settima, non si può negare il gran merito del cinema egiziano in questo campo, grazie alla sua lunghissima storia e al grande contributo degli artisti egiziani ed arabi molto abili che hanno svolto tanti sforzi e sacrifici lungo gli anni per vedere grandissimo il cinema egiziano. Questo vostro programma è dedicato al cinema egiziano che ha celebrato a giugno 2007 il suo 100° anniversario. In ogni puntata vi parleremo in dettaglio di uno dei bellissimi film egiziani, moderni oppure classici, da tutti i lati. Sceneggiatura, regia, personaggi e seguiteci dunque. Buonasera carissimi ascoltatori e benvenuti ad una nuova edizione del vostro programma settimanale 100 anni di cinema. Stasera dedichiamo la puntata ad un documentario della durata di 17 minuti prodotto nel 2012. Si tratta di Marchetta Warak o Barchetta di casa, prodotto, scritto e girato dal giovane regista egiziano Helmi Nou. Questo cortometraggio ha partecipato alla 23esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano, che si è tenuta dal 4 al 10 maggio 2013. Vi daremo più dettagli sul film di stasera dopo il prossimo stacco musicale. Nel film di cui parliamo stasera, Marchetta Warak o Barchetta di carta, la barchetta di carta del titolo è quella che confeziona e lascia ovunque un giovane del Cairo. Sta in casa tutto il giorno ma esce volentieri la notte, perché la notte è il nemico del giorno. Durante uno dei vagabondaggi del protagonista, incontra una ragazza, una giovane professionista che si sta bevendo una bevanda e una sigaretta in santa pace dopo una lunga giornata di lavoro. Si rivesta e insegue con la sua videocamera i due giovani mentre passeggiano e conversano sulla situazione attuale dell'Egitto e il futuro del paese dopo la rivoluzione del 25 gennaio 2011 e tutti i cambiamenti politici, economici e sociali che accadono ogni giorno. Per lei è un'esperienza nuova stare così di notte a parlare con naturalezza con uno sconosciuto, però aveva bisogno di farlo per scappare dalla monotonia della sua vita di ogni giorno. Marquet Guarac, Barchetta di Casa, del regista Luciano El Minui, è un film che lavora per metafore, con un'efficace manipolazione dei toni, un incontro di sera tardi in un bar per un uomo e una donna, un'occasione che porta dalla vita ad una storia d'amore, si fa scorgere la speranza che naviga sul dondolio di una fragile barca di carta. I critici hanno trovato interessante il tema di questo documentario e bellissima la sua fotografia. Dicono anche che sia un peccato che il film duri solo 17 minuti. Il film ha ottenuto il premio miglior cortometraggio internazionale al Nile Diaspora International Film Festival nel 2012. Il premio miglior cortometraggio di finzione all'Olympia International Film Festival del 2012. Il regista del nostro film della serata, Barchetta di Casa, ha solo 24 anni, per noi è un solo come regista, ma anche come sceneggiatore e produttore. Non nasce in Egitto nel 1989, ha studiato regia all'Alto Istituto di Cinema del Cairo. Ha lavorato come aiuto regista per qualche anno in alcuni film egiziani e dal 2010 dirige, scrive e produce i propri cortometraggi. Marquet Guarac e Barchetta di Casa è il suo terzo lavoro dopo L'Espulso, prodotto nel 2010 e Aida La Luna, prodotto nel 2012. Carissimi amici, termina così il tempo dedicato alla nostra puntata di stasera, ma vi diamo sempre appuntamento la settimana prossima, augurandovi un buon proseguimento di serata. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato 100 anni di cinema, a cura di Viola Samia, e presentato per voi da Antonello Bocchini. errore non dormire chiaro. Dichiara che l'Egitto non permetterà le minacce alla sua sicurezza idrica. Negativa la reazione di Hamas alla nomina di Rami Abdallah in qualità di nuovo premier. Un missile piovuto in un villaggio siriano causa 26 morti. Il presidente turco invita i manifestanti alla calma dopo le dure proteste antigovernative. Passiamo ora alle notizie in dettaglio. L'Egitto non permetterà che una parte dell'Unione sul suo territorio venga minacciata neanche della bocca, dopo la decisione del governo etiope di costruire una casa civile a Giuda, lo dichiarato il presidente egiziano Mohammed Morsi. Occorre adottare le misure che garantiscano la protezione della sicurezza idrica dell'Egitto, ha dichiarato Morsi, che ha presieduto un vertice a Cairo con alcuni dirigenti politici ed esponenti religiosi sulla questione. Il primo ministro di Santander ha fatto ritorno stamane al Cairo, proveniente da Tokyo, al termine di una visita di qualche giorno in Giappone, nel corso della quale egli ha partecipato ai lavori della conferenza internazionale per lo sviluppo in Africa, CICAG 5. All'ordine della conferenza di Tokyo, Sandino ha effettuato numerosi importanti incontri, tra cui il suo incontro con il presidente tunisino, Al-Moiseh Al-Marzouki, sulle relazioni bilaterali e gli sviluppi del dossier siriano. Il capo del governo ha avuto un incontro anche con il suo omologo giapponese Shinzo Abe, che ha affermato la cura del suo paese a rafforzare la cooperazione con l'Egitto. Negativa la reazione di Hamas alla nomina annunciata ieri dal presidente Mahmoud Abbas di Rami Abdallah in qualità di nuovo premier dell'ANC e in sostituzione del dimissionario Salah Fayyad. Al nome di Hamas, Paolo Barone ha definito questa scelta illegittima e illegale. Questa aggiunta contribuirà a sanare i dissensi come il papà. Hamas insiste piuttosto per la costituzione di un governo nazionale di tecnocrati. Un missile piovuto in un villaggio siriano ha fatto 26 morti, almeno 8 di questi sono bambini, lo ha riferito una ONG. Alla mezzanotte di domenica ha affermato l'osservatorio siriano per i diritti umani basato a Beirut, 26 persone sono rimaste uccise, tra queste 6 donne e 8 bambini. Si è trattato di un missile terra-terra che ha colpito il villaggio di Khafanda. Le forze governative stanno tentando di conquistare il villaggio e poi di spezzare l'assedio ribelle di Nubr e Jara, due villaggi a nord di Aleppo. Il presidente Bashar al-Assad controlla oggi solo il 40% della Siria. Questa è la valutazione espressa dal ministro iraniano della difesa Moshe Yalom di fronte alla commissione parlamentare per gli affari esteri e la difesa. Almeno 4 milioni di Damasco sono sotto il controllo dei ribelli. Mio nonno ha aggiunto che i missili russi S-300 che inquietano Israele non dovrebbero arrivare in Siria prima del 2014. Se i paesi occidentali cominceranno a rifornire di armi ai ribelli siriani, c'è il pericolo che esse raggiungano le milizie di Al-Qaeda presenti in Iraq a causa dei loro legami con il gruppo jihadista Al-Nusra che si batte contro il regime di Damasco. Lo ha affermato anche il primo ministro iracheno, Nuri al-Maliki, mentre il suo paese alle prese con una nuova ondata di attentati e violenze interconfessionali tra sciiti e sunniti. L'altro Baghdad ha avvertito fatalmente Israele di non utilizzare lo spazio aereo iracheno per un eventuale attacco alle infrastrutture nucleari dell'Iran. A mettere sull'avviso Israele è stato il vice ministro degli affari energetici Hussein al-Sharistani, il primo a farlo pubblicamente tra gli esponenti del governo iracheno. Il bilancio degli scontri tra sunniti e alawiti scoppiati tra domenica e lunedì nel nord del Libano è di 6 morti, 5 uomini e una donna. Un civile è stato ucciso e altri 21 sono rimasti feriti negli scontri avvenuti domenica notte tra sunniti e alawiti, ha riferito una fonte della sicurezza. A Altri scontri sono scoppiati questa mattina tra i sostenitori e gli oppositori del presidente siriano Bashar al-Assad nel quartiere di Bader Tabari, causando altre 5 vittime. Le tensioni tra i due gruppi etnici si sono riaccese dopo un breve periodo di sosta, a un mese dall'ultimo attacco che era costato la vita a 31 persone, sperando in 200. Sono le 20:20 da Radio Cairo, state ascoltando il notiziario. Sono due soldati del contingente NATO uccisi insieme a 10 bambini durante l'attacco suicida avvenuto stamane nei pressi di una scuola a sud di Kabul, in Afghanistan. Il nuovo bilancio della strage è stato fornito da un portavoce della forza internazionale di assistenza alla sicurezza ISAF. Il capo dello Stato turco Abdullah Gül ha lanciato un segnale di apertura ai manifestanti antigovernativi, affermando che la democrazia non è solo le elezioni, e ribadendo il diritto di manifestazione pacifica. Se ci sono obiezioni, non c'è nulla di più naturale che esprimerle in modo pacifico, ha affermato, invitando tutti a mantenere la calma. Negli ultimi minuti Gül ha preso talora le distanze dalla linea muscolare del premier Recep Tayyip Erdogan, suo compagno di partito. Il premier turco Recep Tayyip Erdogan ha negato che il movimento di protesta contro il suo governo, messo in moto in diverse città del paese, possa essere considerato una primavera turca, e associato così ai movimenti che hanno portato alla caduta di diversi regimi autoritari nei paesi arabi. Chi lo scrive, ha affermato Erdogan parlando con i cronisti, prima di lasciare Ankara per una visita nel Maghreb, non conosce la Turchia. Inoltre il premier turco ha affermato oggi che la rivolta antigovernativa ha collegamenti esteri ed è organizzata da gruppi estremisti. State calmi, rilassatevi, tutto sarà superato, ha affermato Erdogan. Sul terreno, un giovane turco è stato ucciso a Istanbul da un auto che ha investito un gruppo di manifestanti antigovernativi, hanno anticipato quanto medico. Il giovane Mehmet Ayvalitas, 20 anni, si stava spostandosi con altri manifestanti lungo una serie di Istanbul, teatro da 4 giorni di violenti scontri tra dimostranti e polizia. Altri 4 manifestanti sono stati feriti, uno gravemente, indicato l'associazione della cerca CBD. Nessun progresso con l'Iran sul controverso programma nucleare, i colloqui continuano a girare in fondo, a vuoto, ha detto il direttore generale dell'AIEA, Yukiya Amano, alla riunione dei 35 paesi membri a Vienna. Malgrado il dialogo si sia intensificato nell'ultimo anno e mezzo e dopo 10 round di discussioni, nessun accordo è stato raggiunto, ha detto. L'Iran avanza con le acque pesanti e le centrifughe in clara violazione con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Le sanzioni internazionali contro l'Iran non sono irreversibili, ma ha affermato la responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton, in un'intervista all'agenzia di stampa russa Interfax, prima dell'inizio questa sera del vertice russo Unione Europea di Ekaterinburg. L'UE è pronta ad aiutare Austria, Repubblica Ceca e Germania, duramente colpite dal maltempo e dalle inondazioni, con le risorse del Fondo per la Solidarietà. Così il commissario UE alle politiche regionali, Johannes Hahn, in una dichiarazione diffusa dal suo portavoce Shirin Weller al briefing di mezzogiorno. In questa fase, è stato detto, i paesi non hanno fatto domanda, ma hanno 10 settimane per formularla, e ci sono buone ragioni per ritenere che siano accolte. Grazie cari ascoltatori, avete appena ascoltato il notiziario. Radio Cairo vi invita all'ascolto di... La vita del Rinascimento tra le ambizioni etiopiche e le paure egiziane. Una misura che costituisce una sfida a tutti i principi, carte e accordi internazionali, l'Etiopia ha annunciato la sua decisione, improvvisa, di deviare il corso del Nilo Azzurro e di costruire la diga del Rinascimento o la diga del Millennio. Mentre questa crisi si è bruscamente manifestata dopo la vicepresidente egiziana in Etiopia per quanto sapeva la possibilità del Giubileo d'Oro della creazione dell'Organizzazione delle Unità Africana, le radici risalgono al mese di maggio 2010, quando sei paesi del bacino del Nilo, Etiopia, Uganda, Kenya, Tanzania, Ruanda e Burundi, hanno deciso di firmare nella città ugandese di Entebbe un nuovo trattato sulla divisione delle risorse del Nilo. Una proroga di un anno è stata accordata al Cairo e a Khartoum per aderire al trattato se lo desiderassero. In quel momento l'Egitto ha dichiarato che l'accordo di Entebbe violava il diritto internazionale ma anche i regolamenti messi in vigore dalle organizzazioni internazionali donatrici. Ha affermato che si intratterrà con gli altri donatori per sottolineare l'illegalità del finanziamento di ogni progetto fisico, sia sul corso del Nilo sia sulle sorgenti, per un effetto negativo sulla sicurezza idrica dei detenuti del corso del Fiume. Ultimamente gli Stati membri hanno preso delle misure per la ratifica dell'accordo da parte dei loro rispettivi parlamenti. Nella Commissione di le cose storiche dell'Egitto e del Sud sono registrate dagli accordi di 1959, prenderanno fine in virtù dei quali l'Egitto ottiene fino ad oggi 55,5 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno, mentre il Sudan 18,5 miliardi. In studi presentati dalla parte sieto non sono sufficienti per dimostrare che la costruzione di questa diga vara il settimo dell'Egitto. È ciò che ha condotto l'Egitto a costituire un comitato tripartito ed ha infatti deciso di aderire, di deviare il corso del Nilo Azzurro a trazione fatta dalle sue conseguenze nefaste per l'Egitto. Quest'ultimo impiega attualmente degli sforzi diplomatici per contenere la crisi e dei contatti intensi vengono effettuati ai più alti livelli con l'Etiopia per tradurre l'impegno politico con misure pratiche tangibili e raggiungere un accordo possibile a realizzare gli interessi reciproci dei due popoli, salvaguardando gli interessi idrici dell'Egitto. L'Egitto, che non permette che vengano toccate le sorgenti e ricorda qualsiasi progetto che costituisca una minaccia a queste risorse,